Today, the most profitable sector of the prison industrial complex is immigrant detention. Oggi uno dei settori più proficui è la detenzione dei migranti, non solo negli Stati Uniti, ma anche... Tutti stanno dicendo in Italia? Sì, in Europa. Ora, in questa particolare congiuntura, al tempo stesso, dobbiamo dire che c'è l'intensificazione di attacchi da parte dello Stato israeliano in Cisgiordania e a Gaza. Ora, voglio suggerire che non è un caso che i giovani inizino ad esprimersi contro la supremazia bianca precisamente mentre si stanno diffondendo l'islamofobia e il razzismo antimusulmani. Come ho scritto altrove, l'uso della guerra al terrore, sì, di solito mi autocito, ma almeno lo riconosco. L'uso della guerra al terrore come un'ampia designazione del progetto della democrazia occidentale del XXI secolo è servito da giustificazione dell'antimusulmanismo ed è ulteriormente applicato nell'occupazione israeliana della Palestina, si trova realmente nella repressione dei migranti e delle migranti, ha portato indirettamente alla militarizzazione dei dipartimenti di polizia locali negli Stati Uniti, incluso nei college e nei campus universitari, che hanno acquistato il surplus militare dell'Iraq e dell'Afghanistan attraverso il programma di Dipartimento della Difesa sulle proprietà in esubero. E quindi, in risposta al recente assassino di Michael Brown, manifestanti che sfidavano la violenza poliziesca si scontravano con poliziotti in tuta mimetica, con armi militari e alla guida di veicoli armati. I think it is important to understand racism of the first decades of the 21st century. Credo che sia importante capire che questo è il razzismo dei primi decenni del XXI secolo. Dobbiamo riconoscere l'articolazione con le torture, gli assalti militari e le dimensioni ideologiche della cosiddetta guerra al terrore. Una delle prime tra le nuove organizzazioni giovanili associata all'attivismo antirazzista radicale, i Dream Defenders, non solo ha sfidato la questione della giustizia nel caso dell'assassinio di Trayvon Martin in Florida, ma ha anche fatto appello ai giovani di colore ad unirsi per un futuro libero dal razzismo ovunque. Non solo hanno una leadership che include fin dall'inizio un giovane avvocato palestinese americano che si chiama Ahmad Abu Snaid, ma hanno integrato la questione della giustizia per la Palestina in tutti i programmi contro il razzismo. Nel 2014, l'anno in cui è scoppiata la protesta di Ferguson, sono stati uccisi più palestinesi dallo Stato di Israele che in qualunque altro anno dall'inizio dell'occupazione del 1967. Non è un caso che i palestinesi americani si siano attivati nelle proteste di Ferguson fin dall'inizio. E come alcuni di voi sapranno, i palestinesi sul luogo nella Palestina occupata sono stati i primi a portare sostegno e solidarietà alla protesta di Ferguson. E successivamente, all'inizio del 2015, attivisti di Ferguson, i Dream Defenders, Black Lives Matter, Black Youth Project 100, hanno partecipato alla delegazione solidale con la Palestina e sono tornati a promuovere l'attivismo contro il razzismo negli Stati Uniti per attuare seriamente la solidarietà con la Palestina. Ed è piuttosto interessante che in campus universitari in tutto il paese organizzazioni di studenti neri che sono intensamente impegnati in lotte contro il razzismo nei campus stiano anche collegando la questione della giustizia per la Palestina con le lotte locali. The Nelle congiunture storiche noi abbracciamo nuove possibilità che prima avevamo paura di riconoscere. Ma allo stesso tempo ci sono segni che potremo fare dei passi indietro. Negli Stati Uniti sembra che ci sia un nuovo consenso contro l'incarcerazione di massa. E la gente ovunque, in particolare giovani di colore, in particolare giovani neri, in particolare donne nere e in particolare giovani donne nere queer, stanno assumendo un ruolo di guida nelle lotte contro la violenza razzista di Stato. Black and other progressive students in the US are demanding. Studenti neri e progressisti stanno richiedendo cambiamenti anche nel sistema dell'educazione universitaria. All'Università del Missouri hanno richiesto ed ottenuto le dimissioni del preside, che si era rifiutato di prendere provvedimenti contro tutta una serie di casi di razzismo nel campus. E se qualcuno di voi ha seguito questa storia, sa che sono riusciti ad avere il supporto di molti membri della facoltà. Ma è stato quando la squadra di football ha sostenuti che il preside si è dimesso. What is so interesting now is the fact that finally activists are recognizing the intersectional relations. Quello che è interessante adesso è il fatto che finalmente gli attivisti e le attiviste stanno riconoscendo le relazioni di intersezione tra le questioni che stanno portando all'attivismo politico. Stiamo comprendendo i collegamenti tra il razzismo e l'eteropatriarcato, transfobia e anticapitalismo. Palestina e Ferguson. Il movimento Black Lives Matter, guidato da Alicia Garza, Patrice Cullors e Opal Tometi, sta forzando quella che può essere ora chiamata una discussione nazionale sulla razza. Bill Clinton, alcuni di voi forse lo ricordano, è ancora sulla scena politica oggi. Durante la sua amministrazione fece un appello per una discussione sulla razza, ma non è successo nulla, nonostante gli sforzi accademici di accademici attivisti come John Hope Franklin. Anche Obama ha invitato una discussione sulla razza, ma ci sono delle critiche che insistono sul fatto che il tentativo di impegnarsi contro il razzismo sarebbe una preoccupazione particolaristica di un presidente nero. E così ci è voluto un movimento contro la violenza di polizia. Si potrebbe riconoscere la relazione tra razza e complesso carcerario industriale. Si potrebbe sottolineare la natura profondamente strutturale della violenza razzista di Stato. Si potrebbe riconoscere l'affinità delle lotte per la giustizia razziale negli Stati Uniti e le lotte per la giustizia in Palestina. Ci è voluta una coscienza di queste affinità, di tutte queste affinità, per portare avanti l'inizio di quello che ora possiamo chiamare la discussione sulla razza. Questa enfasi sulle connessioni, sull'intersezionalità, è derivata in larga parte da influenze femministe e dalle lotte femministe. And of course the feminism I speak about is also anti-capitalist. E ovviamente il femminismo di cui parlo è anche anticapitalista. C'è una stretta connessione fra anticapitalismo, antirazzismo e lotta contro la violenza di genere e per la parità di genere. E così tutti questi nuovi movimenti, Tutti questi nuovi movimenti antirazzisti riconoscono l'importanza di questo femminismo anticapitalista ed antirazzista. Quello che è particolarmente emozionante in questi movimenti è il fatto che, innanzitutto, considerano molto seriamente lo sviluppo di un'analisi sul capitalismo e riconoscendo le connessioni con gli attacchi ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. È piuttosto interessante che negli anni 70, ad esempio, quando c'erano 200.000 persone dietro le sbarre, negli Stati Uniti un lavoratore o una lavoratrice su tre faceva parte di un sindacato. Ed oggi, che abbiamo quasi 2 milioni e 500.000 persone dietro le sbarre e 7 milioni sotto il controllo diretto del sistema di giustizia criminale, solo un lavoratore o una lavoratrice su 10 fa parte di un sindacato. And these new movements see racism within, as I've been saying, an intersectional framework. Almeno adesso i movimenti vedono il razzismo in quello che possiamo chiamare ambito intersezionale. E potrei articolare il mio discorso dicendo che l'opposizione al razzismo contro le persone nere richiede una comprensione del razzismo antilatino, antiindigeno, antiasiatico e specialmente in questo momento del razzismo antimusulmano e dell'islamofobia, ma anche di altre forme di repressione, della repressione contro le persone migranti, della misoginia, contro l'abolizionismo, l'omofobia, la transfobia. Questi movimenti riconoscono il fatto che nessun movimento per la giustizia può essere completo finché non si riconosce il contesto internazionalista di queste lotte e quindi il collegamento con i movimenti per la giustizia in Palestina. In molti modi si potrebbe dire che la Palestina ha oggi, per i movimenti antirazzisti, lo stesso ruolo che aveva il Sudafrica negli anni Ottanta. And these anti-racist movements are developing new modes of leadership. E questi movimenti antirazzisti stanno sviluppando nuovi modelli di leadership. Nelle comunità nere siamo abituate ed abituati ad una sorta di leadership individualista e carismatica e maschile. E quindi le nuove forme di leadership non sono state necessariamente riconosciute. Non sono state necessariamente riconosciute come leadership, perché sono collettive e perché gran parte della leadership è attuata da donne. C'è una leadership nera, c'è una leadership di donne, c'è una leadership di donne queer, c'è una leadership nera trans. E io non lo sottolineo per ragioni identitarie, ma piuttosto perché questo tipo di leadership collettiva può aiutarci a liberarci dall'assimilazione di certi ambiti ed obiettivi. And finally, in characterizing these new anti-racist movements. Infine, nel delineare le caratteristiche di questi nuovi movimenti antirazzisti, posso dire che i movimenti ora stanno riconoscendo l'importanza di incorporare pratiche di cura di sé nel processo di lotta. Non possiamo ammazzarci di fatica senza pensare a come faremo a continuare. Se distruggiamo noi stessi, il nostro movimento ne risentirà. Impariamo a prenderci cura di noi, del nostro corpo, del nostro spirito, della nostra immaginazione. Cosa che ci richiede una buona alimentazione. E una buona alimentazione richiede la diffusione di una critica alla produzione alimentare industriale capitalista. La consapevolezza della distruzione di antiche sementi da parte di Monsanto, le critiche alle violenze inflitte agli animali con lo scopo di produrre cibo per il profitto, che al tempo stesso danneggia la salute di chi lo mangia. E così potremmo continuare. Questo è l'inizio di una nuova conversazione sull'incorporazione dei modi di cura di sé nei processi delle lotte antirazziste, anticapitaliste, femministe. Ma questi sono solo alcuni degli ingredienti per un approccio contemporaneo alle lotte radicali e per vivere. Molte grazie. Thank you very much.